L'ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco di Simone Piva e Viola Velluto, Ci vuole fegato per vivere. Come si chiamava questa canzone? Nuovo mondo. Ed ora quali saranno le prossime mosse della band per il futuro? Ma sicuramente suonare live. Desiderio di tutte le band. Certo, però niente, noi saremo adesso il 15 luglio a... Ne parliamo dopo delle date. Ah, ok, allora niente, suonare il video che uscirà in breve di Italia Far West. Prodotto da Daniele Babbo Dandaddy, che è anche il regista dell'ultimo video dei Baustelle, Zen Circus, eccetera eccetera, De Niro, eccetera eccetera. Quindi al momento hai solo videoclip e promozione di concerti, insomma, ecco. Sì. Non hai idea magari di un nuovo disco o qualcosa? Beh, adesso no, è troppo fresco questo, troppo fresco. Quindi le idee sono ancora da mettere giù. Siamo molto concentrati a pubblicizzare questo disco. Bene. Qua. Siamo al quinto brano, cosa scegli di far ascoltare? Adesso ascoltiamo il mio Revolver. Bene. foto sul mio comodino. Lascia pure che la rabbia mi divori. E mentre ronzi di zanzare, perfide e malvagie, osservano assetate. Io cerco di scacciare tutti i miei brutti pensieri. Il tempo come sempre vola, noi siamo quasi in chiusura di puntata. A voi ricordo i contatti per le segnalazioni, scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it, ricordo www.radiorcs.it per info su Radio RCS, Rock Legends, streaming per ascoltare la nostra radio attraverso il media player. Grazie a Simone Piva per la partecipazione, a questo punto la parola per i contatti web ed email per info sul vostro disco ed un calendario di live già definiti. Allora, i contatti potete trovarli su tutti i social network, sono Facebook, Twitter, Rockit, MySpace, sotto Simone Piva e Viola Velluto, Simone Piva, e i prossimi live saranno il 15 luglio all'ex biblioteca all'Inchiostro in centro a Pordenone, il 22 luglio saremo all'Home Page Festival al Parco del Cormora a Udine da supporto agli Statuto, 29 e 30 luglio e il 1 agosto ci sarà un grosso festival in Puglia vicino a Bari che si chiama Giovinazzo Festival e saremo lì insieme ai Zen Circus, Deus e via dicendo. Il 18 agosto saremo a Clout, sempre in regione Friuli, al Summer End con i migliori gruppi rock del Friuli. Chi volesse comprare il nostro disco, chi è piaciuto, può trovarlo in tutti i negozi. È distribuito Audio Globe. Se non lo trovaste fisicamente, potete ordinarlo e nel giro di 2-3 giorni vi arriva. Quindi niente, ordinatelo. Distribuzione digitale? Distribuzione potete trovarlo su iTunes e iMusic, oppure ancora meglio, venite ai nostri concerti. Ecco, lo trovate lì sicuramente. Brano per chiudere questa serata? Il brano si intitola Cuova This Baby. Gianluca e Simone Piva vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana quando avremo in studio gli Wheels of Fire da Milano che ci presenteranno il loro disco Hollywood Rocks. Ciao! Ciao! soffrire, ma amare è lo scopo del nostro esistere.